gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. I Love Italy, il nostro programma su WRMI, WRMI, Radio Miami International. I Love Italy è il vostro contenitore in lingua italiana che dura 15 minuti appunto su Radio Miami International. Cari amici e care amiche, come state? Tutto bene? Spero che le giornate proseguano bene. Siamo nel mese di dicembre, quindi il mese di Natale, e quest'oggi puntata speciale dedicata ovviamente al Natale. Parleremo di tante cose e in apertura vi ricordo, come dico spesso, tutti i vari riferimenti per ascoltarci. E sentiamo questo jingle e poi vi spiego come sentire I Love Italy. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Quindi questo era il nostro sito. Se volete interagire con il programma, voiceofitaly.it, poi c'è anche www.rmi.net e andreamangiarotti.com. Lì trovate i vari modi per inviarci un rapporto di ricezione. Se volete la cartolina personalizzata di I Love Italy, visitate voiceofitaly.it, scrivetemi una mail e vi manderò la vostra cartolina personalizzata di I Love Italy. Tra le altre cose, nuova cartolina che abbiamo progettato. Ora però arriviamo ai numerosi ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio tantissimo Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda sulle onde corte ogni domenica mattina alle ore 11, ora italiana, sono le 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia, radio voce della speranza, la radio per l'appunto della Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Ringrazio gli amici di AVR Italia, Voce della Speranza, perché sono stato ospite appunto domenica 19 novembre, abbiamo fatto una bella chiacchierata sulle onde corte, su Radio Miami International. Andrea ha appunto raccontato la storia affascinante di WRMI. Poi c'è stato l'amico Graziano, che tra le altre cose abita a pochi chilometri qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, quindi saluto anche Graziano, e Andrea e Roberto appunto di AVR Italia. Quindi salutiamo Roberto, Graziano e Andrea di questa mitica emittente che trasmette sulle onde corte, la AVR. Andiamo avanti ora con i saluti. Salutiamo un amico che ci ha ascoltato dall'Australia e ci ha mandato anche un rapporto di ricezione. Leggiamo la sua email. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene. È stato un piacere ascoltare il suo programma italiano qua in Australia. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue. Data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione UTC 01:15-01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, lingua italiana, per un simpo 34333. Dettagli, mi ha detto appunto cosa ha ascoltato, praticamente ha fatto un report di quello che la mia voce ha detto. Qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico e affascinante, davvero molto desiderabile. Ricevitore Kiwi SDR, antenna Loop Way 80 metri. È in allegato un breve file audio registrato appunto dalla sua trasmissione. Se i dettagli sono corretti, ti prego di confermare con una cartolina QSL cartacea, se possibile una cartolina proprio cartacea, è molto apprezzata. Cordiali saluti, l'amico Bruce Lee dall'Australia, che tra l'altro ricorda anche un grande personaggio appunto giapponese, Bruce Lee. Grazie ancora Bruce Lee, ti manderemo sicuramente la cartolina cartacea, perché io adoro mandare cartoline in formato cartaceo, non la mail. La vedo un po' fredda inviare un rapporto di ricezione, confermare un rapporto di ricezione tramite email, ma anche inviarlo, perché anch'io invio rapporti di ricezione alle radio che trasmettono sulle onde corte. Prossimamente la manderò appunto una richiesta di QSL alla Voice of Korea. E ora abbiamo un altro amico, il caro amico che ci scrive dalla Cina. Cara Radio Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore della Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano alle ore 21:15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz. Il segnale è molto forte, effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea, anche qualche altro gadget o souvenir dal programma, eccetera eccetera. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 4 novembre 2023, orario d'ascolto diciamo così, ascolto effettuato sulla frequenza da 15.770 kHz, 21 UTC, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di appunto Jiangsuin, provincia dello Jiangsu. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore. Il simpo è 43434. Proprio il mese scorso di ottobre ho finalmente ricevuto la vostra QSL di settembre, che è molto carina. Noi ne manderemo un'altra all'amico che ci ha ascoltato appunto dalla Cina. Ding Lung, dallo Jiangjin, provincia dello Jiangsu. Scusate, ma è un po' complicato per me il cinese. E poi un amico che ci scrive invece attraverso la nostra paginetta Facebook, la potete trovare, potete passare a mettere un mi piace, basta cercare I Love Italy Double RMI Radio Miami International, ci trovate su Facebook, ci sono io con la mia faccia e potete scrivermi anche lì. Questo amico, Giuseppe Gecchele, ci scrive proprio attraverso la nostra paginetta Facebook. Le scrivo in quanto avevo ascoltato una trasmissione e avevo compilato un rapporto di ricezione con il modulo che c'è nel sito di Double RMI con data 2/9/2023. Gradirei ricevere la QSL. Può verificare? Grazie. Cordiali saluti, Giuseppe Gecchele. Caro Giuseppe, il sito della radio è gestito dal nostro caro Jeff, che sicuramente ti invierà la QSL della radio se hai compilato con i tuoi dati corretti. Sicuramente Jeff ti manderà una QSL, ovviamente ci vuole un po' del tempo perché riceve tante QSL, riceve tanti rapporti di ricezione, quindi inviare QSL ci vuole anche dei mesi. Quindi se invece preferisci ricevere la nostra QSL, scrivimi tramite email andrea@mangiarotti.org, ci compili un rapporto di ricezione e te la invio con immenso piacere, lascia anche il tuo indirizzo vero e proprio e ti mando il tutto. Ora direi ragazzi e ragazze di entrare nel vivo della trasmissione, prima però vi voglio ricordare che se volete potete anche interagire attraverso WhatsApp e Telegram mandando un messaggio, ve lo faccio dire da Daniela, a quale numero, che è sempre bello ascoltare una voce femminile. Potete comunicare con Andrea di I Love Italy anche tramite WhatsApp e Telegram. Studio Pirata oltre Popavese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram. Questo era per quanto concerne messaggi WhatsApp e Telegram. Ovviamente abbiamo aggiunto Studio Pirata per ricordare un po' le radio degli anni 70 che c'erano in Italia, dove erano veramente delle emittenti pirata. Comunque non c'è nulla di pirata, è solo un nome che ho dato io allo studio qua di Broni nel Oltre Popavese. E ora, visto che si parla di Natale, attenzione, vi volevo leggere un qualcosa di veramente bello che è capitato nel Natale del 1914. La tregua di Natale del 1914, un atto straordinario di umanità durante la Prima Guerra Mondiale. Attenzione, nella vigilia di Natale del 1914, un atto straordinario veramente di umanità si svolse sul fronte occidentale della Prima Guerra Mondiale, in Belgio. Siamo nella trincea delle Fiandre. Ci sono soldati francesi, inglesi e tedeschi. Dichiarano spontaneamente una tregua. Cioè praticamente loro, senza ascoltare i superiori o chi per essi, loro hanno deciso di fare una tregua, questi soldati francesi, inglesi e tedeschi, e appunto senza ordini militari, si sono incontrati nella terra di nessuno. Si sono stretti la mano, hanno celebrato una messa, hanno seppellito entrambi i caduti da tutte e due le parti. L'evento è noto come la tregua di Natale, affidò le convenzioni della guerra e mostrò la forza veramente dell'umanità anche nei momenti più bui. La storia, a lungo cancellata dalla memoria, è stata riscoperta grazie al lavoro di due giornalisti inglesi, Alan Cleveren e Leslie Park. Nel 2009 hanno creato un sito web veramente bello, che potete anche visitare, dal titolo che è Operation Plume Pudix, e hanno reso praticamente accessibile a tutti 80 lettere di soldati proprio del Regno Unito, che testimoniavano quello che era successo. Queste testimonianze sono state tradotte e raccolte, ci sono fotografie, bellissimo, dove si riporta proprio alla luce questa tregua bellissima durante la Prima Guerra Mondiale. Se volete visitare questo sito, dove vedete tutte le foto dei soldati proprio inglesi, francesi, e anche austriaci e tedeschi, scusate, lo potete vedere a questo indirizzo web christmastruck.co.uk, scritto così: christmastruck.co.uk, e potete vedere questo bel racconto di Natale. Noi siamo arrivati in fondo. Andy Mangiarotti vi saluta e vi ringrazia e vi auguro anche uno splendido Natale e un felice anno nuovo. A Dio piacendo ci risentiamo nel 2024. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per lo spazio e l'ospitalità, e anche a Jeff e a tutta la sua famiglia i miei migliori auguri di uno splendido Natale. Grazie ascoltatori, grazie ascoltatrici, a Dio piacendo ci sentiamo quindi a gennaio. Ciao ciao, ciao, grazie, ciao. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. www.andreamangiarotti.com. I love Italy. Yeah. I love Don Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy.